tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi. Sta bene, ti convegno. Palazzo Farnese. Va, Tosca, nel tuo car s'annida Scarpia. Va, Tosca, e Scarpia te sarai falco della tua gelosia. Quanta promessa nel tuo pronto sospetto, nel tuo cor s'anni da Scarpia. Va, Tosca, yeah.